5A. Ascolta e trasforma. Perché non disse nulla? Perché non dissero nulla? Cosa disse il tuo amico? Cosa dissero i tuoi amici? Lui disse molte cose. Loro dissero molte cose. A chi disse di aspettare? A chi dissero di aspettare? Non dissi nulla per timidezza. Non dicemmo nulla per timidezza. Dissi a Maria di tornare il giorno dopo. Dicemmo a Maria di tornare il giorno dopo. Dissi a Giorgio come stavano le cose. Dicemmo a Giorgio come stavano le cose. Dissi ai colleghi di avere pazienza. Dicemmo ai colleghi di avere pazienza.